About Cult, il programma di aboutbologna.it condotto da Silvia Santachiara e Valentina Fabbri. Gli artisti della scena musicale contemporanea si raccontano. 25 minuti di immagini, testi e storie. Ciao a tutti, siamo ancora qua come ogni giovedì, sempre su Radio Città Fujiko. Ciao Valona. Ciao Silvietta. Allora, questa volta siamo andate a conoscere un nuovo artista della scuderia di Bombadischi, si chiama Claudio Rossetti, ma per tutti è Claudio, e insomma c'è anche una bella novità perché ieri è uscito con il suo nuovo singolo che è Disneyland Paris, ma l'abbiamo conosciuto a novembre con Cuore, che è entrato subito nella rotazione di importanti radio nazionali, a cui poi sono seguiti i singoli Ricordi e Nacchere, che hanno anticipato l'album Togliatti Boulevard. Sì, noi l'abbiamo però incontrato quest'estate a Oltre Festival, il festival di musica indipendente che si è svolto ad inizio luglio al Parco delle Caserme Rosse, ve ne abbiamo già parlato varie volte, e l'abbiamo intervistato, ebbene sì, in bocciofila, mentre insomma gli avventori del Circolo Arci hanno continuato imperterriti la loro briscola. Ci piacciono le interviste strane. I suoi testi sono profondi e malinconici, sicuramente raccontano in particolare i momenti altalenanti che seguono la fine di una storia, ma ogni tema viene affrontato con una certa ironia comunque. Sì, per fortuna. Allora, Claudio è in tour, il 9 novembre sarà in concerto al Locomotive Club di Bologna. Noi vi facciamo ascoltare l'intervista, ma solo dopo il suo ultimo singolo. Con te lo sai, mi sento come Daniel. Tutti lo vedono, mai nessuno chiede da dove viene. Il te vero e biondo però non mi pare, ma ce lo chiami uguale. Forse è davvero biondo, però è vestito verde militare. Un nodo che non è stretto bene, un gatto che non si avvicina mai. A volte sembra non stiamo insieme, che siamo l'acqua e l'olio, ci manca il sale, sai, io e te sembriamo l'acqua e l'olio, non ci mischiamo mai. Tu abbracciami come fossi in pericolo, sorridimi come se fossimo a Disneyland Paris. Tu abbracciami come se fosse l'ultimo, sorridimi come se fossimo a Disneyland Paris. A volte traccio un confine netto, io sono il Sudan e tu l'Egitto, che hanno un confine ad angolo retto, l'ho visto ieri sul mappamondo. Questo confine non posso passarlo, e forse questo motivo mi spinge a fare visita a un altro paese. Tanto c'è pure su Marte la Sfinge, io e te due rette parallele, non ci incontriamo mai. Tu abbracciami come fossi in pericolo, sorridimi come se fossimo a Disneyland Paris. Tu abbracciami come se fosse l'ultimo, sorridimi come se fossimo a Disneyland Paris. Abbracciami come fossi in pericolo, sorridimi come se fossimo a Disneyland Paris. Tu abbracciami come se fosse l'ultimo, sorridimi come se fossimo a Disneyland Paris. è Claudio ed è una nuova scoperta dell'etichetta Bomba Dischi, che negli ultimi anni ha portato alla ribalta artisti anche come Calcutta, Carl Brave e Franco 126 e Giorgio Poi. Cuore, che è appunto il primo singolo, racconta i momenti altalenanti della fine di una relazione. E hai detto che hai scritto Cuore stando seduto sul letto tra un turno e l'altro, a lavoro, pensando a quante volte è successo e succederà ancora, insomma, a tutti noi. Nel tuo album hai messo cose molto intime, molto, molto tue, che valore hanno quando poi, incidendole, in qualche modo le regali agli altri, diventano di tutti? Beh, valore è la cosa più bella, perché poi vedi, quando una persona si emoziona come te, allora stai condividendo, cioè, una parte importante, e come se ti sentissi una persona intima in quel momento, una persona che conosci da tantissimo tempo. Vedere magari, non so, 300 persone che cantano tutto quel pezzo, sei contento perché è come se avessi detto qualcosa di tuo, ma in modo universale. Perché il cuore marrone? No, perché sono proprio a cercare su internet il cuore, in realtà colore, diciamo, marrone coloniale, quindi okay. Diciamo è per tornare alla realtà. Io quindi c'è questa metafora che dice: non è quel rosso come disegnate quando siete innamorati, magari si fanno i cuoricini rossi, no? Io torno alla realtà, nel okay. Cuore in realtà non è rosso. La tua mano strapparmi il cuore, mi sono accorto che era marrone e non quel rosso come lo disegnavi tu. Forse era meglio quando con le tue mani, come se fosse un gatto, allisciavi lo schermo del tuo telefono. Non ho più visto il meteo ieri, non voglio uscire, ho dei pensieri da sopportare. Forse sono cambiato, non ti porto più le rose, l'8 marzo le mimose, e un cinese mi ha detto che sono un glande. Io mi sento più un coglione onestamente, e l'altra sera poi non mi ricordo proprio niente. Sei tornata con me un'altra volta, una rivincita, tornato tutto come prima, il cane abbaia, l'asino raglia, e diventa un posto brutto anche le Hawaii senza di noi. Ho visto la tua mano strapparmi il cuore, mi sono accorto che era marrone, cacao del cucciolone, o forse ancora di più. Sento meglio, ora per rimpiazzarti mi chiudo dentro al bagno scegliendo un video adatto sul mio telefono. Anche se piove volentieri, io voglio uscire, ho dei pensieri da sotterrare. Forse non è sbagliato di sparare di solo cose, le domande sospettose, e un cinese mi ha detto che sei una stronza, e non ha sbagliato neanche la pronuncia. Dell'altra sera poi ancora a casa una cannuccia. Sei tornata con me perché avevi il ciclo, ti sentivi romantica. Intanto niente adesso è uguale a prima, un cane raglia, un asino abbaia, e diventa un posto bello anche la SNAI senza di noi. Ho visto la tua mano strapparmi il cuore, mi sono accorto che era marrone e non quel rosso come lo disegnavi tu. Le tue gambe me ne ricordano altre, ricordano dei sentimenti. Cosa volevi dire esattamente? Ma lì mi riferivo proprio, allora, sulla Togliatti c'è, cioè, diciamo, di sera soprattutto, c'è molto movimento per prostituzione, cioè. E quindi lì ho, siccome si vede un via vai magari di clienti e tutto quanto, ho immaginato proprio una persona che magari disillusa da relazioni andate male, tutto quanto, che ricerca ancora questo sentimento, cioè magari non va lì per una perversione, quello che è, ma va per ricordarsi come avere l'illusione di una sera di avere una storia d'amore. Quando anche gli sguardi diventeranno dei gesti meccanici, andiamo lontano e sparami contro, rifammi la foto perché mentre cado vengo mosso. Manca l'amore, mancano spasmi, mancano i soldi per pagarti. Ti chiedo lo sconto come fanno tutti gli altri sulla Togliatti. Quanta fila c'è? Tutto il mondo sta andando a puttane, compreso me. Sulla Togliatti, quanta fila c'è? Tutto il mondo sta andando a puttane, compreso me. Perché le tue gambe me ne ricordano altre. Ricordano dei sentimenti. E mi ricordano il mare, perché somigliano a palme. Spero senza noci di cocco, almeno tu. Vita, cambiamo partita e chiama tuo padre. Io voglio giocare, ma fammi un favore, mischiamo le squadre. Tu sei avvantaggiata, già tiri bene le punizioni. E dammi un rigore e dammene tanti. Mischiamo le squadre oppure facciamo portieri volanti. Tu sei avvantaggiata, già tiri bene le punizioni. Sulla Togliatti, quanta fila c'è? Tutto il mondo sta andando a puttane, compreso me. Sulla Togliatti, quanta fila c'è? Tutto il mondo sta andando a puttane, compreso me. Perché le tue gambe me ne ricordano altre. Ricordano risentimenti. E mi ricordano il mare, perché somigliano a palme. Spero senza noci di cocco, almeno tu. E mi ricordano il mare, perché somigliano a palme. E mi ricordano il mare, perché somigliano a palme. E mi ricordano il mare, perché somigliano a palme. E mi ricordano il mare, perché somigliano a palme. I tuoi testi sono molto profondi e malinconici, ma non mancano di ironia. E anche sui social ti racconti sempre in modo molto divertente, quasi un po' a sdrammatizzare. Come convivono queste due parti di te? In realtà forse è sempre stata una mia caratteristica, è sempre stato un po' così, sempre stato magari pure ai tempi della scuola, sempre stato quello, diciamo, un po' il giullare, no? Sempre quello che metteva lì a far un po' il buffone. Forse sicuramente una forma di difesa per magari delle cose che ti potrebbero fare male, allora tu magari sdrammatizzando, facendo autoironia delle volte, le vesti in modo diverso, di modo che non ti possano fare poi del male. E diciamo che è una tattica che uso da sempre, quindi sono proprio io che sono fatto rodata. Sì. Suonavi con Calcutta già molto prima, sì. E adesso apri sì. I suoi concerti, come vivi questo? No, beh, cioè, mi fa molto piacere proprio a livello umano, no? Perché quando abbiamo suonato insieme all'ESC, un locale a Roma, davanti, non so, 30 persone, eravamo io, lui e l'Officina della Camomilla, che è il gruppo di Francesco De Leo, che sta bomba dischi pure lui adesso. E, no, quindi è una cosa, cioè, bellissima. Vuol dire che comunque sia, cioè, abbiamo dei ragazzi che portano avanti le loro passioni da sempre, poi alla fine stanno avendo dei risultati, delle soddisfazioni. Perché l'album si chiama Togliatti Boulevard? Si chiama così perché appunto io a Roma ho sempre vissuto lungo Viale Palmiro Togliatti, che è questo viale che collega due zone di Roma, dove ai lati ci sono vari quartieri. Io sono altezza di Centocelle Alessandrino, e poi essendo un viale di periferia, questa di Roma Est, comunque una zona non proprio curatissima, e a parte il pezzo Le Due Gambe che è stato ispirato da lì, molte situazioni di quartiere come la SNAI, altre cose, sono ispirazione proprio dal quartiere chiamato Boulevard, perché non è un viale così curato, però quando uno pensa a un boulevard magari viene in mente quelli francesi, curati, tenuti bene, quindi rispecchia anche l'ironia che c'è nei testi, in tutto, chiamare Togliatti Boulevard, quando invece è un viale comunque non proprio curatissimo. In ricordi dici, metti i ricordi in un posto che non ricordi. A che cosa serve il ricordo secondo te? Ma il ricordo, i ricordi sono fondamentali per capire il presente, perché alla fine tutto quello che ti è successo nella vita è quello che fa in modo che tu sia così adesso. Quindi è molto più importante il presente, però delle volte non si vive il presente se non si risolve qualcosa pure nel passato, o se non si capisce qualcosa di se stessi, guardando pure come ci si è comportati fino adesso, cose che sono successe, come è vissuto determinate cose. Metti i ricordi in un posto che non ricordi, dove sicuro ci ritrovi anche i soldi croati. Al giorno d'oggi per collegarci sono inutili i ponti. Tornerò a parlarti col walkie-talkie, ma da un metro. Prendi le cose che tu non hai detto mai, quelle che hai detto ma non hai pensato mai davvero, più quelle cose che tu non hai fatto mai. Sono le stesse in cui non hai creduto mai per primo. Le cicatrici, reperti organici dei giorni felici. Una di quelle te la sei fatta in bici, sono certo. Come Jordi rubò sei cervi per alzare due soldi. Tieni al sicuro tutti i buoni e gli sconti scaduti. Cose che tu non hai detto mai, quelle che hai detto ma non hai pensato mai davvero, più quelle cose che tu non hai fatto mai, sono le stesse in cui non hai creduto mai per primo. Chiedermi chi sono, non so neanche chi ero, non posso ricordarlo, metà del mio diario si è l'è mangiato un tarlo. Riguardo ai giorni persi, i soliti discorsi, tu fuggi ma non mordi, e nei tuoi scatoloni si annidano rimorsi. Guardo ai giorni persi, i soliti discorsi, tu fuggi ma non mordi, e nei tuoi scatoloni accumuli ricordi. Ricordi di Claudio, nel brano dice metti i ricordi in un posto che non ricordi, e a me questa frase mi ha fatta pensare molto, insomma un po' quale ricordo non vorrei ricordare, ma insomma ve lo dirò in una delle prossime puntate. Invece a me è piaciuta molto la frase tu fuggi ma non mordi e nei tuoi scatoloni si annidano rimorsi. Come avrete capito, noi lavoriamo molto sui testi, ricerchiamo tematiche da esplorare, su cui riflettere, ma anche parole, termini che ricorrono, situazioni, scene del quotidiano di noi tutti. Questo tema del fuggire, del rimorso, del famoso scatolone con tutti gli oggetti di una relazione, l'avevamo già affrontato anche alcune puntate fa, ad esempio con Nostromo, ma anche con Postino, e ritorna appunto anche nei testi di Claudio. E qui arriva la domanda di rito. Parapapà. Parapapà. Vi siete pentiti di aver lasciato andare qualcuno? Raccontatecelo scrivendoci nel direct del nostro profilo Instagram @aboutcult. Anche per oggi, Valona, il tempo l'è finì, ma prima di salutarci vi facciamo ascoltare Goodbye Goodbye dei Canova. Ciao a tutti. Ciao. Siamo arrivati qua a contare le spine. Come bastarda la città non riesco a parlare. Come siamo arrivati qua? L'anima non lo riesci a capire.